Storiacce di Raffaella Calandra. Per mesi, anche sotto isolato dei colleghi, avevano paura di avvicinarmi per non essere associati a me. Era una sorta di appestato. Sì, ma purtroppo oggi nei confronti di chi come me denuncia corruzione, malaffare o episodi illeciti, certamente ha uno stigma negativo, cioè è lo spione, è il delatore, è l'infame, è sicuramente una persona da non frequentare. E da appestato lui è stato a lungo trattato per aver denunciato quello che aveva visto all'interno della sua azienda, costretto a cambiare ufficio, poi di fatto ad andarsene, mentre i colleghi gli davano appuntamento in bar lontani, perché troppa avvicinanza può significare problemi. Sapendo tutto questo, quanti secondo voi sono disposti a farsi avanti, a correre il rischio anche di perdere il lavoro in nome della trasparenza? Pochi, troppo pochi, quelli come lui, i whistleblower. Ma ci sono anche enti pubblici come il Comune di Milano che invece li incentivano. Ma se a voi capitasse di notare cose che non vanno sul vostro posto di lavoro, a quali condizioni sareste disposti a farvi avanti? Da qui parte questa puntata di Storiacce. Le spese ammontavano a una somma superiore al 500.000 di euro. Che tipo di spese erano? C'erano spese per profumeria, per spese farmaceutiche, pasticceria, argenteria, c'erano dei pagamenti fatti per acquisti a San Francisco. Molte migliaia di euro erano state spese anche per abbigliamento presso boutique di lusso a Milano, ma anche Forze di Marmi in altre località. Una spesa superiore ai 180.000 euro per contravvenzione del codice della strada, 124.000 euro per spese telefoniche, non soltanto dal presidente ma anche dai figli e dalla moglie. Abbiamo trovato spese anche ridicole del tipo toritatura del cane, e poi ce n'erano alcune anche imbarazzanti, per esempio spese per la visione di film pornografici, giocate al poker online con la carta di credito aziendale e così via. E poi ancora biglietti per lo stadio e viaggi a New York, scommesse sportive, sponsorizzazioni per associazioni vicine, tutto sul conto di Ferrovie Nord Milano, l'azienda controllata da Regione Lombardia che gestisce il trasporto ferroviario regionale, una realtà da 300 milioni l'anno di fatturato che fa viaggiare ogni giorno 650.000 persone. Con incredulità, ma allo stesso tempo determinazione, davanti a tutto questo da subito si è deciso ad andare fino in fondo Andrea Franzoso, già funzionario dell'Internal Audit di Ferrovie Nord. Ex perché appunto, dopo aver denunciato quella che i PM di Milano hanno tradotto poi nell'accusa di peculato e truffa, è stato costretto ad andare via dopo aver cambiato incarico e dopo mesi anche di isolamento. E questa, almeno fino ad ora, è la sorte più frequente per il whistleblower, chi cioè segnala anomalie, corruzione e irregolarità nel posto di lavoro. Le denunce di Franzoso però hanno portato alle dimissioni dell'allora presidente Norberto Achille dopo l'interdizione per 6 mesi. Siamo nel 2015, ma dal giorno in cui l'avviso di garanzia fu notificato, la vita di chi ha denunciato è stata stravolta. Gli avvisi di garanzia vennero notificati il 18 maggio 2015. Quindi da allora la mia vita è cambiata, nel senso che non ho più continuato a svolgere quello che era il mio incarico, il mio ruolo. Io per mesi sono andato in ufficio e non avevo nulla da fare. Qualche mese dopo, nell'ottobre 2015, venni trasferito ad una nuova funzione. Ecco, quando io me ne sono andato, questo ufficio è stato soppresso. Io per mesi, anche sotto isolato dai colleghi, dalla maggior parte dei colleghi che avevano paura di avvicinarmi per non essere associati a me. Io per esempio avevo dei colleghi che mi davano appuntamento fuori dall'azienda, cioè la solidarietà mi venne espressa da molti, ma in maniera nascosta, in ascensore per esempio. Se ci troviamo in due, io anche qualche mio collega mi ha abbracciato dicendo «Ah, sono con te», poi si aprivano le porte, eravamo degli sconosciuti. Altri colleghi mi davano appuntamento in bar lontani. E in azienda io ero solo. Ecco, questa è la situazione da appestato, da paria, sì, da isolato di chi nello svolgimento del suo lavoro, diciamo, si ritrova a dover denunciare delle irregolarità. Sì. La sua posizione e anche l'esito della sua vicenda personale, professionale, sarebbe stata diversa se fosse stato già in vigore la legge sul whistleblowing? Probabilmente sì. Io ho fatto anche ricorso dal giudice del lavoro per questo trasferimento che io ritenevo discriminatorio. Il giudice purtroppo ha dovuto rigettare il mio ricorso, perché anzitutto non c'è una legge, cioè la tutela del whistleblower al momento è solamente nel pubblico impiego. La mia azienda è considerata privata, nonostante poi sia posseduta, controllata da Regione Lombardia, però è un'azienda di diritto privato. Certamente se ci fosse stata una legge come quella, non so, che attualmente è ferma, al Senato è stata approvata in prima lettura soltanto alla Camera dei Deputati lo scorso 21 gennaio, qualcosa sarebbe cambiato, sarebbe andato diversamente, anche se il DDL, il disegno di legge, non è sufficiente a garantire una tutela vera. Chi ha attraversato, diciamo, queste situazioni sa perfettamente a cosa va incontro, certo, quando denuncia, per quali ragioni, diciamo, non è ancora sufficiente il testo che per ora è anche soltanto ancora un progetto in discussione. La tutela mi sembra solo formale, nel senso che intanto è diversa tra il lavoratore pubblico e il lavoratore dell'azienda privata. Un secondo elemento, secondo me, importante è che la tutela non deve essere garantita soltanto a chi denuncia fatti illeciti, ma secondo me dovrebbe essere garantita anche a coloro che segnalano, che comunicano all'esterno informazioni di interesse pubblico. Ed è per questa sua esperienza personale che questo giovane, divenuto suo malgrado personaggio pubblico, si batte perché diventino effettive e più forti le tutele del whistleblower. Figura presente ora, stando ai dati dell'autorità anticorruzione, in qualche forma in prevalenza nel settore pubblico, poi a scalare nel privato, tra i consiglieri comunali e pochissimo tra i militari. Dati rielaborati dall'associazione Riparte il Futuro, che insieme a Transparency Italia spinge per la approvazione della norma ferma in Senato, di cui sentivamo già parlare poco fa. Ma ora in realtà in Senato di fatto ci occupiamo solo di decreti e la lotta alla corruzione non è un'autentica priorità, ammette la senatrice PD Lucrezia Ricchiuti. La norma è in Senato, in Commissione Affari Costituzionali, c'è stata una prima, diciamo, discussione. E poi siamo arrivati alla presentazione degli emendamenti. Dopodiché si è tutto bloccato, in Senato si fanno solo i decreti legge, insomma le cose urgenti che non si possono rimandare. Ma che cosa prevede questa legge? Beh, è una legge che tutela, che cerca di tutelare meglio la figura del whistleblower, perché come sappiamo la figura del whistleblower era già stata prevista con la legge Severino. Ma di fatto il whistleblower non è assolutamente tutelato, tanto che vediamo che normalmente, insomma, le persone, quelle poche perché non sono tante, che denunciano irregolarità nell'ufficio dove lavorano, insomma, normalmente vengono licenziate, anziché essere premiate vengono licenziate. Oppure messe nelle condizioni, diciamo, di dover lasciare, diciamo. In che modo concretamente la tutela si estrinsecherebbe? La discriminazione che subisce il segnalante, in sostanza, deve essere segnalata all'ANAC o all'autorità giudiziaria ordinaria oppure all'autorità contabile. Poi io prevedo, sto parlando sempre di emendamenti che ho fatto a questo disegno di legge, il segnalante non deve essere rivelato in nessun caso, certo, a meno la copertura che lui accetti di farlo. Quindi ci deve essere una totale copertura del segnalante. Poi sanzioni sicuramente più robuste nei confronti delle società, perché sanzioni pecuniarie nei confronti della persona che ha attuato delle ritorsioni nei confronti del segnalante e poi prevedere ulteriori sanzioni per il responsabile, per esempio, del procedimento che non ha agito sulla segnalazione oppure non rispetta le determine, per esempio, di ANAC. Poi un fondo di solidarietà per i segnalanti, perché nella maggior parte dei casi i segnalanti, i whistleblower, vengono licenziati o sono messi nelle condizioni di andarsene, e nel caso dovessero affrontare comunque una causa di lavoro, perché sono per esempio stati licenziati, devono affrontare anche grosse spese. Insomma, denunciare il più delle volte comporta un prezzo molto alto e c'è chi pensa che alla fine non convenga. Eppure in questa direzione vanno gli sforzi per cercare di ridurre soprattutto il peso del male secolare del nostro paese, la corruzione, che continua a soffocare lo sviluppo e spesso annulla sforzi politici ed economici. Non a caso gli effetti della corruzione vengono evocati in quasi tutte le fotografie scattate all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Anche se, a dire il vero, qualche passo in avanti c'è stato e dopo l'approvazione della legge Severino nel 2012 almeno la percezione dell'Italia è migliorata. Così nell'ultima classifica di Transparency International il nostro paese scala ben 12 posizioni, ma è ancora soltanto al 60° posto. Tra le amministrazioni, a dire il vero poche, che cercano già di favorire il meccanismo delle denunce c'è di sicuro il Comune di Milano. 26 le denunce arrivate fino ad ora, come Storiacce anticipa, e tra le segnalazioni anche storie di furbetti del cartellino. Da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Storiacce. Che le segnalazioni non sono in un numero eccessivo, nel senso che dal 19 gennaio 2015 sono 26 le segnalazioni, nel 2016 sono 14, sono tutte circostanziate, in buona fede e nell'interesse pubblico, che sono le tre caratteristiche che la segnalazione deve avere per poi avere una fase di indagine. Cosa denunciano i dipendenti del Comune di Milano? A Palazzo Marino già dal 2014 è possibile farlo, protetti dalle norme sul whistleblower. Pensateci un attimo. Se anche voi vi sentiste più tutelati nel vostro posto di lavoro, potreste più facilmente segnalare anomalie, irregolarità e casomai anche reati? Nel capoluogo lombardo ad essere portate all'attenzione dell'organo di vigilanza fino ad ora sono state per lo più storie di furbetti del cartellino, questioni di straordinari, ma pure di concessione di spazi pubblici e di tariffari dei taxi. Questo raccontano le storie che Storiacce è in grado di anticipare rispetto alla relazione annuale. Alcune di queste segnalazioni hanno portato a sanzioni disciplinari, elenca David Gentili, presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano. L'iniziativa è stata presa nel 2014 dalla Commissione Antimafia e si è recepito una richiesta di Transparency International di inserire questa procedura nel piano anticorruzione. Il segnalante è tutelato da un organismo di garanzia che è composto per 2/3 da persone esterne all'amministrazione comunale. La segnalazione può anche essere anonima. Che tipo di segnalazioni sono arrivate? Allora, all'inizio io ero molto preoccupato perché pensavo che sarebbero arrivate molte segnalazioni, magari molte inutili, alcune frutto di rancore, di invidia. Dal 19 gennaio 2015 sono 26 le segnalazioni. Nel 2016 sono 14. Nessuna ha un carattere diffamatorio, sono tutte circostanziate, in buona fede e nell'interesse pubblico, che sono le tre caratteristiche che la segnalazione deve avere per poi avere una fase di indagine. Cioè, segnalazioni di che genere, diciamo? Innanzitutto, l'aspetto più importante, secondo me, di questa procedura è anche prevenire i fatti corruttivi. Un secondo elemento che si è manifestato in queste 26 segnalazioni, sicuramente che è, diciamo, la materia più cospicua, è quello di segnalazioni che vengono dall'interno sulle procedure da modificare, che sono procedure anche legate al piano anticorruzione, la pubblicazione degli atti. Altre segnalazioni, e sono nell'ultimo anno almeno 7, sono segnalazioni di comportamenti di singoli dipendenti che assolutamente non sono rispettosi del contratto di lavoro, quindi 7 su 14, quindi la metà, anche se 3 sono ancora in corso, 7 sono in riferimento a singoli comportamenti di alcuni dipendenti, dalla beggiatura alle ore straordinarie, alla turnazione dei lavori, quindi questi aspetti. Altri sono in merito alla pubblicazione, per esempio, di alcune determine o di atti amministrativi che non venivano pubblicati sul sito. Le segnalazioni di problemi di beggia, di orari di lavoro non rispettati, hanno prodotto degli effetti? Sicuramente ci sono state la segnalazione delle irregolarità del comportamento si è trasformata poi anche in una sanzione disciplinare. Segnalare dunque ciò che è il reato, ma pure poter raccontare soltanto qualcosa di pubblico interesse senza profili di illecito. L'obiettivo del whistleblowing dovrebbe essere anche questo, ma fino ad ora, come prova la storia di Andrea Franzoso che abbiamo raccontato nella prima parte di Storiacce, questo non avviene. Lui, la gola profonda delle Ferrovie Nord di Milano, dopo aver fatto partire l'inchiesta giudiziaria che ha travolto nel 2015 l'ex presidente, è stato di fatto messo nelle condizioni di dover lasciare l'azienda, dove tra l'altro ha visto anche, oltre a spese folli, un sottobosco di scambi e vicinanze tra ambienti che in teoria dovrebbero invece restare ben distinti. Un'area grigia che forse con più tutele emergerebbe di più, e non solo qui. Ci sono casi anche famosi a livello internazionale, non so, il caso di Antoine Deltour. Siamo in Lussemburgo, un dipendente di una società di revisione che scopre che il governo del Lussemburgo ha stipulato con 340 multinazionali degli accordi di favore fiscale. 340 multinazionali eludevano le tasse che sono applicate alle altre aziende. La cosa è perfettamente legale. Antoine Deltour l'ha rivelato ai giornali ed è finito nei guai. Ecco, anche a lei è capitata una situazione del genere? Comunicare, ad esempio, che annualmente l'allora presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, chiedeva e otteneva sponsorizzazioni per la propria associazione no profit Teatro Noma, non è reato. A mio avviso è questa comunque un'informazione che è di interesse pubblico, perché a mio avviso ci sono dei profili di inopportunità per cui secondo me un presidente del tribunale non può chiedere, anche se è per fini nobili, altissimi, quello che si vuole, non può chiedere soldi ad un'azienda privata o un'azienda parastatale controllata da Regione Lombardia. Sponsorizzazioni montavano a 30.000 euro all'anno, per esempio durante le indagini di Consob in Ferrovie Nord. Il presidente di Consob, Giuseppe Vegas, è andato a pranzo, a cena con il vicepresidente di Ferrovie Nord, perché sono amici, ex colleghi di partito, entrambi militanti in Forza Italia dal 2001-2006, erano assieme in Parlamento. Ci sono dei fatti, diciamo, delle cose inopportuni. Ecco, quindi anche per... Ecco, quindi una legge del genere in qualche modo favorirebbe anche una maggiore trasparenza delle notizie. Ma ci faccia capire, sì, di cosa ha bisogno chi, come è stato per lei, si trova nella situazione di dover denunciare irregolarità o reati o comunque situazioni di opacità? È fondamentale prevedere, ad esempio, un fondo di garanzia. Sostenere whistleblower, le persone che denunciano, nelle spese che possono incontrare, spese legali. Alcuni whistleblower possono avere anche necessità di avere un sostegno psicologico. Le sanzioni previste attualmente sono irrisorie, dai 5.000 euro ai 30.000 o ai 20.000 per le aziende. Se un collega ha paura che, avvicinandosi a un whistleblower, possa subire anche lui ritorsioni, benissimo, allora la legge deve tutelare il whistleblower e la sua rete di supporto. In realtà anche in questo caso niente di nuovo sotto il cielo, perché già ai tempi degli antichi greci i whistleblower esistevano ed anzi erano valorizzati. Linea dunque, come sempre a questo punto, alle nostre mitiche storiacce e a Giorgio Ieranò, professore all'Università di Trento e autore di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. Qualche giorno fa il portavoce di Donald Trump, Paul Ryan, ha lanciato un'accusa contro Julian Assange, l'uomo che con WikiLeaks ha svelato molti alterini dei potenti. Assange, ha detto Ryan, è un sicofante per conto della Russia. Immaginiamo la disperazione di molti cronisti davanti a quell'astruso epiteto, sicofante. Una parola che Ryan ha usato però nel suo senso più esatto. Sicofante, infatti, è il modo dispregiativo in cui nell'antica Grecia venivano chiamati proprio i whistleblower. Il sicofante era appunto il delatore, la persona che denunciava un crimine. Nell'Atene di Pericle, infatti, non c'era una pubblica accusa. I reati venivano perseguiti solo sulla base di denunce avanzate da privati cittadini. Erano questi appunto i sicofanti. Un nome bizzarro che significa letteralmente coloro che mostrano i fichi, forse perché in origine denunciavano l'esportazione clandestina di questi frutti da Atene. Chi denunciava un reato poteva farlo ovviamente anche per nobili ragioni, ma il sicofante non aveva in genere buona fama, passava per uno spione, uno che gode nel rovinare gli altri, passava per un delatore prezzolato, ed ecco perché Ryan dà ad Assange, dal suo punto di vista, del sicofante. Di fatto però i sicofanti garantivano, nell'antica democrazia ateniese, una sorta di controllo sociale diffuso esercitato dagli stessi cittadini. In ogni momento il tuo vicino di casa poteva farsi sicofante e denunciarti se ti vedeva commettere un reato. Noi ci stiamo arrivando solo adesso, ma già l'Atene di Pericle era una città di whistleblowers. E a voi è mai capitato di dovervi interrogare se denunciare o meno qualcosa di strano notato al lavoro, e sareste disposti a segnalarlo casomai con più tutele? Se vi va, fateci avere le vostre testimonianze o le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra. A presto!